Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Tre settimane, mancano tre settimane. Sì. Tre settimane a Chiedo Asilo Live, la puntata extra che sarà tutta dal vivo e che andrà in scena nella sede di Radio 24, del Sole 24 Ore, una bellissima sede. Quindi sì, bello venire anche solo per vedere il palazzo fatto da Renzo Piano. Per attraversare il cortile. Comunque, il 22 marzo alle 21. Sì, durerà un'oretta, non è che 10 minuti, perché magari qui credono che stiamo 10 Poi c'è minuti. La merenda, insomma ci si ride, c'è la merenda. Sì, no? Sì, no, speriamo. Sì, comunque bisogna prenotarsi e bisogna scrivere a chiedoasilo@radio24.it specificando nome, cognome e quanti posti volete riservare, quelle robe lì. Ecco, e noi metteremo in scena una puntata risorgimentale in cui cercheremo con modestia di continuare il discorso del bambino Benigni, che a Sanremo ha commosso tutti con la storia dei bambini Mameli e Novaro e di tutti quei bambini che sono caduti per fare l'Italia. Con modestia ma con franchezza descrivi te stesso, sai, quei titoli. Sì, quei temi degli anni 50. Comunque anche noi celebreremo dei bambini, celebrando al contempo il nostro meraviglioso bel paese. È un paese in cui, diciamo, tutto va abbastanza bene, tutto insomma è bellissimo, tutto è abbastanza normale, quasi noioso direi, quasi noioso, la vita quasi di noioso. Questa democrazia così infatti, florida. Il nostro live vuole quindi rappresentare un omaggio e un ringraziamento sentito a tutti quei bambini che hanno contribuito a fare dell'Italia il paese che è. Viva l'Italia! È inevitabile tornare a Sanremo K, soprattutto adesso che ormai è stato tutto dimenticato e archiviato. No, torniamo un attimo a quell'incredibile anteprima di due settimane fa con Antonella Clerici e la figlioletta in età da asilo impegnate in un surreale dialogo monologo in cui a parlare è soltanto la mamma. Pensa, Mel, che per tante persone arrivare qui è un sogno. Io quel sogno l'ho realizzato. La prima volta che ci sono venuta, però tu non c'eri. Ecco, sì, non c'eri ancora. Non c'era. Beh, ma sarebbe interessante sapere cosa pensa la bambina. Sei anni fa. Tipo, ma chi è questa cicciona bionda? Un amico che si chiama Paolo. Ecco, mi ha voluto vedi, qui con Paolo. Lui chi è Paolo? Sì, così come l'asilo. Papà non si chiama Paolo. Ma allora vuol dire che tu... E poi... I vestiti strani. Sono tornata qui per condurre... un programma per bambini. Ecco, Chiedo Asilo. E proprio alla fine di quel programma non è Chiedo Asilo. Ho scoperto che aspettavo te, che eri già nella mia pancia. Vabbè, però la pancia, cioè. Quindi durante il programma dei bambini, e proprio su questo palco, sempre quel mio amico Paolo, mentre conduceva il festival, mi sa che Paolo mi ha fatto una telefonata. Una telefonata davvero speciale. Chi è tuo io ero in clinica, Paolo. Tu eri nata da poche ore. Lui ha detto a tutti che la mia piccola Mael era arrivata. Mael, un nome che vuol dire principessa, perché tu sei la mia principessina, amore mio. Però dai, io sto sempre dalla parte dei bambini. Sto dalla parte di Mael, la bambina mutolita. Vabbè, mutolita, vorrei vedere te in braccio alla Clerici che delira, che dice no, cose io in braccio alla Clerici, ma non ci sto, sono 2 metri, trago, 100 kg, no, 45. Allora, la Clerici in braccio a te. Ma anche lei 100 kg. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione molare. Politica. Chiedo asilo! E ora bambini, ricreazione! Uè, ascoltate un po', un bambino di Facebook, sulla mia pagina di Facebook, mi ha mandato un libro. Ma così? Ma io non ho ancora capito. Mandano i regali, hanno niente. Però non ho ancora regali, capito, ma lui legge o non legge? È capace a leggere? Certo. Ma c'è, solo davanti, c'è solo certe lettere. È un libro che si chiama Il bambino Alberto, E c'è un bambino in copertina. Però non sono io. Ma sì, ma per forza è Alberto Moravia, no? Perché. Bravo. Ma com'è che fai a saperlo? È un libro di Dacia Maraini, e Dacia Maraini è stata una delle donne nella vita di Alberto Moravia e ha scritto questo libro sull'infanzia, giusto? Il grande scrittore Alberto Moravia. Ma io non sapevo neanche che esisteva questo Alberto Moravia. Anche Moravia è stato un bambino Alberto. Come te? Capito? Sì, ma infatti nel libro? Parlano della sua vita da bambino, no? E com'era questa vita da bambino grande Alberto Moravia? Tutta diversa dalla mia. Perché i genitori di Moravia non erano comunisti. No, non erano comunisti. Lui poi sì, però vabbè. Vabbè, ma lui a me interessano i genitori. Sì, vabbè. No, loro erano borghesi, E avevano due o tre case, E c'avevano in casa, il padre era uno anziano, già anziano quando è nato lui, autoritario, un architetto. E la madre casalinga, e per forza lì. E in casa c'avevano la cuoca, la cameriera, la governante, e la governante tutte straniere, no? E c'è anche polacca, la governante polacca. Una badante come. Ma no, ma la governante per il bambino? Vabbè. Tutta un'altra vita, perché questi vivevano a casa grande, un sacco di stanze. Noi viviamo in un trilocale. E siamo in quattro. Vabbè, ma guarda, bambino Alberto, erano altri tempi. Moravia ha vissuto più di 100 anni fa, immagina, quindi quante cose sono cambiate. Vabbè, adesso dovrebbe essere meglio, no? Questi qui, già, a parte il fatto che mi fa saltare la cena. E quando c'è mangia delle porcherie, questi qui, la famiglia, il suo bambino Alberto, mangiavano di brutto, Mangiavano mezzogiorno e sera, mangiavano il primo, il secondo, la carne, pieno di sughi, no? In tingoli. In tingoli. Roba pesante, no? E burro, e olio. Capito, insomma, e la carne, un po' di invidia normale. I dolci, a mezzogiorno e la sera. E la domenica i pasticcini. Sì, vabbè, insomma, 100 anni fa, capito, insomma. E 100 anni fa. Vabbè, ma lo so che lui è vecchissimo, Moravia, no, vabbè. Non so neanche adesso quanti ne avrai, ma 120 anni. No, vabbè, ma... Bambino Alberto, io credevo che lo sapessi, Che cosa? Che il bambino Alberto Moravia è morto. Ah, è morto? È morto, sì. È morto anche lui? Vabbè, perché anche lui? Cioè, chi è che è morto anche? Vabbè, ma muoiono sempre tutti? Muoiono i bambini finché mi fanno vedere i miei genitori. Sì. Muore la piccola vedetta lombarda. Sì. Certo. Muore il bambino Alberto Moravia. Sì, vabbè, in generale muoiono tutti, certo. Ma nel senso che è una regola abbastanza rigida, Sì, non è che c'è tanto da fare. Si muore tutti, bambino Albertuccia. Cioè, si vive un po', però alla fine... Insomma, alla fine si muore. Vabbè, allegria. È allegria. Teniamo sempre d'occhio qui a Chiedo Asilo il bambino Sgarbi, che è sempre lì che gira allo stato brado per i vari programmi televisivi. Ma si sa anche il perché. Lui non ha mai nascosto di aver bisogno di soldi per pagarsi gli avvocati che lo difendono dalle decine, vado in loop come lui, decine di querele che si è raccate negli anni. Va in loop, quindi... Però lui continua ad abusare di questo loop. Taci, se lui continua così non lo invita più nessuno, perché diventa prevedibile. E ormai lo sanno tutti che se gli piace una parola, lui la ripeto 85 volte ritmicamente. Zittisce tutti gli altri. In regia i fonici si mettono le mani sulle cuffie, per non dire sulle orecchie, e il conduttore rimane lì impotente ad aspettare che la furia si plachi. Io giudico positivamente la De Filippi. Va bene. Ma nessuno può dire che una donna che sceglie un produttore, la Gregorazzi con Briatore, cosa ha fatto allora? È sbagliato. Libertà. Anche di darla. Raffinatissimo, capito? Ormai non si accontenta più di libertà, e poi ha chiuso, In un loop, tre loop, tre mini loop. Fantastico. E stavolta la parola prescelta è libertà. Chissà come mai. È lo stesso slogan che urlava il bambino Ferrara alla Dunata delle Mutande al Teatro del Verde, Milano. Libertà di essere libertini. Un po' da 68 come rivendicazione. Ed è strano che la facciano bambini così lontani dal 68 come Ferrara e Sgarbi. Ormai è così, finché non si sapeva niente delle abitudini private del bambino premio. Erano tutti per la famiglia, tutti famiglia, contro l'aborto, cose lì. Sì. Appena escono fuori le storielle piccanti, tutti a dire che divertirsi non è un reato, che non è neanche un peccato. Però da Ferrara c'era anche il bambino Formigoni, che non può essere sospettato di avere dei segreti. Lui è un bambino specchiato di fede, fa il chierichetto, la comunione tutte le domeniche. Se c'era anche lui, il bambino Formigoni, lì da Ferrara, vuol dire che il tutto si svolgeva all'interno della morale cattolica, cioè mi sembra un ragionamento assolutamente perfetto. Sì, ma il bambino Ferrara deve spiegare la sua posizione sui metodi contraccettivi usati durante il libertinaggio del premier, perché sennò, scusa Drago, finiamo in un cul-de-sac. Un cul-de-sac flaccid. Cul-de-sac, più che altro un cul-flaccid-de-sac. Sì, perché insomma, bambino Ferrara, durante le feste in cui si abusa di San Viterbo, può anche succedere che si verifichino degli incontri sessuali completi. Ed è facile immaginare che vengano usate precauzioni per evitare gravidanze indesiderate. Sì. Sì. A questo punto il bambino Ferrara deve spiegare perché l'anno scorso era diventato ratzingeriano e oggi invece difende la libertà di fare wild parties con ragazze minorenne. Bisogna ancora aspettare. No, bisogna ancora aspettare. Ma cosa? Perché magari tra qualche mese all'Olgettina è tutta un'esplosione di fiocchi rosa azzurri. I citofoni. E quindi? E quindi vuol dire che non sono state usate precauzioni, proprio come dice la morale cattolica, e quindi Ferrara è contento. Basta solo. Questa quartina. Devi fare la quartina tu. Falla di pigri, quella lì. Dai. Ma pigri non sono io. Pigri sono gli ascoltatori che non ce le mandano. Allora, appunto. Quindi siete tutti pigri, non scrivete niente. Queste maledette quartine le dobbiamo inventare sempre noi. E allora chiediamo asilo.